Domino con mio beato, solo ti dai a poco dare, Maria la Virginella tutta pure, tutta bene. E da voi la prosentane, l'anceri vi preghia, muove da fagisla tua, Maria da Gesù. Gesù che è nostro padre, Maria che è nostra madre, tutta anceri in compagnia, e Domenica e Maria. Tutta anceri in compagnia, e Domenica e Maria. O Maria, allora sai, sacratissima regina, ma crucento tu sai, e noi ti dissimo stasera. E se manca a me dare, Maria me la perdonare, Maria rispose e disse, manca a me andare. Ma si proprio andavissi, io ve lo venni a perdonare. La corona non lasciare, caro tempo che perdito, io ve lo venni a guadagnare. Allo punto di la morte, manda l'angelo a accompagnare, se Mariana di mancare. E dito sto rosario in compagnia, la vimo di te cura l'Italia. E impara di soccogni amici tempo, ci vuole di bellezza di Maria. Maria che bella rosa e bello un vento, che sempre prega l'uvero di sia. Lo damo allo santo sacramento, e viva lo rosario di Maria. O mamma dolci morti, o mamma mia Maria, assistite malagonia fino allo punto dell'eternità. Regina di lo carmino si puoi, tu dammi rifrigeria di me guai. Ma prega, prega lo figliolo tuoi, cari bisogni me tu già li sai. Io non mi muovo di riferitori, se non mi fai la grazia che tu sai. E fatemi la Vergine Maria, col cuore di salutami e di divina Santa di Maria.